Forza Economia. Con Vincenzo Miglietta. Bentrovati allora da Vincenzo Miglietta, 17.07, nuova puntata di Focus Economia che non potrà non parlare anche oggi di banche e in particolare della vicenda di Monte Paschi di Siena. Tema obbligato anche per un comunicato di poco fa del Ministero delle Finanze tedesco che, commentando il piano Salva Banche italiano, avverte la BCE e la Commissione europea, dicono da Berlino, devono assicurare che le autorità italiane rispettino le regole dell'Unione europea. Ed ancora il governo Merkel aggiunge: la ricapitalizzazione precauzionale delle banche tramite il governo può concorrere alla soluzione dei problemi soltanto in circostanze eccezionali e nel quadro di regole stringenti. Insomma, pressing su Bruxelles da parte dei tedeschi, anche se a questi andrebbe ricordato che il decreto salva risparmio varato da Palazzo Chigi è stato concordato preventivamente, non poteva essere altrimenti, proprio con i vertici europei. Vi ricordo subito allora il 349-238-6666 per i vostri messaggi. Su questo e sugli altri temi aspettiamo i vostri commenti. E comunque si sapeva che la partita per Monte Paschi sarebbe stata e sarà molto lunga. I calcoli e i programmi calibrati su un aumento di capitale da 5 miliardi di euro dovranno ora essere rivisti nell'ottica degli 8,8 miliardi imposti da Francoforte per il salvataggio di Rocca Salimbeni. Il governo dovrà dunque rivedere al rialzo la cifra da mettere sul piatto, investendo un terzo dei 20 miliardi previsti nel decreto salva risparmi. Ricordiamo che anche oggi ed ancora per molto il titolo Monte Paschi è sospeso a Piazza Affari. Gli altri titoli del settore continuano a far segnare prestazioni con il segno meno. Davanti è il caso di Banco Popolare BPM. L'accordo sugli esuberi relativo alla fusione dei due gruppi dal 2 gennaio non riesce proprio ad entusiasmare gli operatori. Dicevamo di Piazza Affari, diamo allora uno sguardo rapido alla giornata di contrattazioni. In questo momento il FTSE MIB -0,69%, i migliori e i peggiori sempre del FTSE MIB: Saipem tra i migliori, Tenaris, CNH Industrial, A2A e Salvatore Ferragamo. I peggiori del FTSE MIB sono Telecom Italia, UBI Banca, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare e Fineco Banca. I più scambiati: Banca Popolare di Milano, Mediaset, Telecom ed Unicredit. Ed ora poi gli altri listini europei: il DAX Francoforte -0,09%. Londra, FTSE 100, +0,43%, Londra che è tornata oggi a lavorare, ieri era ancora in pausa natalizia, poi il CAC 40 di Parigi, -0,13%, l'Ibex Madrid -0,52%. Per quanto riguarda Wall Street, il Dow Jones in questo momento -0,10%, Standard & Poor's 500 -0,36%, il Nasdaq -0,50%. I cambi euro su dollaro 1,039,51. Lo spread poi dei titoli di Stato nei confronti del Bund tedesco in questo momento 160,30 punti, -2,49%. E sempre dai mercati ci arrivano gli spunti poi per gli altri due approfondimenti di oggi. Da una parte l'andamento del petrolio che rafforza le sue quotazioni con immediati riflessi, e su questo ci sarebbe da riflettere sui prezzi al distributore. E poi il titolo Mediaset che resta abbastanza sorprendentemente al centro degli scambi. Dico sorprendentemente perché non potendo ufficialmente né Fininvest né Vivendi salire ulteriormente nelle rispettive quote, ci si domanda chi stia comprando e a favore di chi. Potete scriverci allora al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. Per le notizie in breve che partiamo come sempre dalle materie prime. Per quanto riguarda l'oro, 1137,2 dollari l'oncia, il petrolio in rialzo a New York a 53,98 dollari il barile, con quotazioni che salgono dello 0,13%. Nuovi rincari per il prezzo della benzina, che sulla scia dell'aumento delle quotazioni petrolifere arriva sul servito a picchi di oltre 1,7 euro al litro. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, nei giorni a cavallo delle feste i ritocchi al rialzo sono stati generalizzati. Il listino della Verde nei distributori Kuwait è così arrivato a 1,722 euro, mentre il gasolio tocca in quelli della Shell 1,586 centesimi di euro. I rincari della benzina sono iniziati ad ottobre scorso, dopo il primo accordo OPEC che a fine settembre ha disposto un taglio della produzione, innescando aumenti a catena del prezzo del greggio e dei prodotti raffinati. L'economia internazionale ora, per quanto riguarda l'acquisto delle case negli Stati Uniti, i compromessi per l'acquisto delle abitazioni in novembre sono scesi del 2,5%, il dato è peggiore delle attese degli analisti che scommettevano su un aumento dello 0,5%. Nuovo crollo alla borsa di Tokyo per il titolo della Toshiba dopo l'annuncio di ieri circa una possibile svalutazione degli asset di una divisione statunitense per svariati miliardi di dollari. Le azioni quest'oggi hanno perso il 20%, il massimo consentito dalle autorità di borsa. Dopo aver ceduto il 12% nella giornata di martedì a mercati chiusi, Toshiba aveva annunciato che il valore delle acquisizioni portate a termine dalla controllata Westinghouse Electric per la realizzazione di un progetto relativo alle centrali nucleari di nuova generazione deve essere ancora determinato, ma secondo le stime più attendibili potrebbe essere ridotto di circa 500 miliardi di yen, l'equivalente di 4,3 miliardi di dollari. E quali sono le conseguenze su Toshiba? Timori per la carenza di liquidità a breve termine, e Moody's ha tagliato il rating di Toshiba da B3 a CAA1 e ha messo la società giapponese sotto osservazione, con implicazioni negative per un ulteriore possibile declassamento. L'agenzia di rating motiva la decisione con l'aggravarsi dei timori per carenza di liquidità a breve termine. Boom delle emissioni di debito del 2016, escluso il debito sovrano venduto con aste regolari, i bond emessi sono ammontati a 6.620 miliardi di dollari, di cui più della metà da parte delle aziende. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che le vendite di bond da parte delle aziende sono salite dell'8% a 3,6 miliardi di dollari. Secondo gli analisti, il boom del 2016 sarà però difficile da ripetere, fra i previsti aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed e i dubbi sui futuri acquisti di bond della Bank of Japan e della Banca Centrale Europea. Nel 2016 i paperoni nel mondo si sono arricchiti di complessivi 237 miliardi di dollari, con le loro fortune aumentate del 5,7% a 4.400 miliardi di dollari. A scattare la fotografia dei ricchi nel mondo è l'agenzia Bloomberg. I paperoni americani sono coloro che si sono più arricchiti, anche se, contrari al presidente eletto e schierato per la candidata democratica Clinton, i ricchi americani hanno guadagnato 77 miliardi di dollari con il rally delle borse innescato dalla vittoria di Trump. Warren Buffett è l'uomo che più si è arricchito, seguito da Bill Gates, Harold Hamm e Jeff Bezos. L'unico non americano nella top 5 è Bernard Arnault. E veniamo all'Italia. Il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di BOT a 6 mesi, offerti in asta oggi con tassi in discesa al nuovo minimo storico. Il rendimento medio è calato a meno 0,317% da meno 0,199 del collocamento di novembre. Il precedente minimo storico era stato toccato a ottobre a meno 0,295. La domanda ha raggiunto i 9,7 miliardi di euro, con un rapporto di copertura in calo a 1,49 da 1,69 precedente. Veniamo alle stime dell'Associazione Bancaria sulla crescita italiana, uscita dalla recessione ma ad un ritmo di crescita lento, coerente con il quadro ciclico internazionale. E quanto prevede il rapporto AFO per il prossimo biennio dell'ufficio studi dell'ABI, costruito con gli uffici studi delle principali banche operanti in Italia. Per il 2016 e per il prossimo anno l'ABI stima una variazione positiva del PIL dello 0,9%, di due decimi superiore a quella del 2015 e per il 2018 dell'1,2%. La crescita sarà trainata completamente dalla domanda interna, con la componente esterna che fornirà un contributo marginalmente negativo. E ora un altro indicatore molto importante che arriva dall'Istat. A dicembre 2016 migliora il clima di fiducia dei consumatori, mentre peggiora quello delle imprese. L'indice dei consumatori, rileva l'Istat, sale da 108,1 a 111,1, con progressi diffusi a tutte le componenti della fiducia, che torna sul livello di luglio 2016. L'indice composito del clima delle imprese scende invece da 101,4 a 100,3. Le dinamiche settoriali sono diversificate. Peggiora infatti la fiducia nei servizi e nelle costruzioni, cresce nella manifattura e nel commercio al dettaglio. Ma per un commento sui dati sentiamo Roberto Monducci, direttore del Dipartimento Produzione Statistica dell'Istat, al microfono di Teresa Trillò. Il clima di fiducia delle famiglie era in diminuzione da circa un anno, quindi questo è un segnale di ripresa che interrompe una lunga sequenza di diminuzioni. Per quanto riguarda invece le imprese, qui abbiamo una divaricazione tra l'andamento, il miglioramento del settore manifatturiero, del commercio al dettaglio, e invece un ridimensionamento per quanto riguarda le costruzioni e i servizi. Quindi direi che per quanto riguarda le famiglie il segnale è chiaro, molto diffuso e assolutamente evidente. C'è un recupero di fiducia esteso a tutte le principali componenti. Per quanto riguarda le imprese, direi che il miglioramento di due settori, il peggioramento degli altri due, segnala una situazione un po' di incertezza, un po' di, diciamo, di erraticità degli indici, e probabilmente nei mesi successivi avremo un chiarimento anche di queste dinamiche. E sin qui l'Istat e la fiducia dei consumatori e delle imprese. Sempre per quanto riguarda il lavoro, invece, nel terzo trimestre del 2016 si registra un saldo positivo pari a 543.000 delle posizioni di lavoro dipendente rispetto allo stesso trimestre del 2015 e pari a più 93.000 rispetto al trimestre precedente. Emerge dalla prima nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione diffusa dal Ministero del Lavoro, dall'Istat, lo dicevamo, dall'INPS e dall'INAIL. Nel confronto tendenziale la variazione di più 543.000 è determinata soprattutto dai contratti a tempo indeterminato, che sono 489.000, e marginalmente dalle posizioni a tempo determinato, che sono 54.000. Sempre il lavoro: meno occupati under 35 più over 50, è la tendenza confermata nella prima nota trimestrale congiunta di Ministero del Lavoro, Istat, INPS e INAIL, in cui si riprendono anche i dati Istat diffusi a inizio dicembre. Nel terzo trimestre dell'anno infatti l'occupazione nella fascia di età tra 15 e 34 anni è calata di 55.000 unità rispetto al trimestre precedente e di 29.000 unità rispetto al terzo trimestre del 2015. Tra gli over 50 invece prosegue, seppur in misura meno accentuata rispetto al passato, la significativa crescita del numero di occupati. E per chiudere, il commento del Presidente del Consiglio Gentiloni proprio sui dati Istat: dice buone notizie su crescita, contratti stabili, riduzione sofferenze bancarie, possiamo fare di più. Con le parole di Gentiloni chiudiamo le notizie in breve e passiamo al nostro primo approfondimento. Nostro primo approfondimento che dedichiamo al prezzo del petrolio, ma soprattutto agli effetti del rafforzamento del prezzo del barile. Ne parliamo innanzitutto con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma. Buon pomeriggio, Tabarelli. Buonasera, grazie. Buonasera e grazie della sua partecipazione. Ricordo brevemente che il taglio alla produzione del petrolio di 1,8 milioni di barili al giorno per i prossimi sei mesi a partire dal 1 gennaio 2017, deciso nell'accordo stipulato l'11 dicembre tra paesi OPEC e non OPEC, sta dando i suoi effetti con l'aumento del prezzo del petrolio e il conseguente rialzo dei costi del carburante. Allora, Tabarelli, la prima domanda che le faccio è: così immediato oppure deve essere così immediato e scontato che ad un aumento del prezzo del barile vi sia in termini così rapidi un aumento poi dei costi del carburante al distributore? Sì, perché aumentano, in realtà aumenta sul mercato internazionale il prezzo della benzina, perché noi nel serbatoio mettiamo benzina o gasolio diesel, che sono due prodotti derivati dal petrolio assieme a un'altra decina, che hanno il loro mercato con quotazioni che seguono l'andamento della materia prima. E quando i prezzi crollano del greggio, crollano anche quelli della benzina sul mercato internazionale, e anche quelli alla pompa seguono di solito abbastanza velocemente al ribasso, così capita al rialzo. Anzi, quello che noi abbiamo visto nelle ultime settimane, c'è stata maggiore lentezza rispetto al passato a seguire quello che è accaduto sul mercato internazionale. Quindi ecco, il mercato proprio del prezzo finale, lei dice che questa volta ha reagito con una maggiore lentezza rispetto agli aumenti del petrolio. Sì, se noi facciamo un banale monitoraggio del prezzo ottimale, lo chiamiamo così, prendiamo il prezzo internazionale, ci mettiamo le tasse, un margine di distribuzione, e questo nell'ultimo mese è sempre stato inferiore a quello che doveva essere, quello praticato era inferiore a quello che doveva essere. Di circa 2-3 centesimi. Ricordo che avevamo dei minimi, noi guardiamo il self-service, che è quello più usato per il diesel, ad esempio, che è il prodotto più consumato in Italia, sul hyper-self, negli automatizzati, avevamo dei valori intorno a 1,30, adesso siamo anche 1,28, 1,29, adesso siamo aumentati di circa 10 centesimi, in sostanza un po' meno. C'è spazio per altri 3-4 centesimi, poi come ricordavate voi abbiamo ampie forchette in Italia, abbiamo anche dei valori tranquillamente superiori di 20, 30, 40 centesimi sul servito o iperservito, perché ricordiamo che molti consumatori vogliono essere serviti, non amano farsi da soli la benzina, hanno paura di sporcarsi, hanno paura di lasciare la carta di credito o il bancomat nel distributore, insomma poi ci si sbaglia perché ci sono le colonnine servito, poi o self-service, insomma, e a volte è un po' complicato, e pertanto molta gente che è disposta a pagare qualche centesimo in più pur di essere servito. Ecco, vediamo allora che nell'ultimo mese il prezzo del greggio è salito di circa il 15% e questo potrebbe anche far sì che vi sia un deficit di offerta nei prossimi mesi, visto il contemporaneo taglio dell'OPEC. Questa è una prospettiva credibile secondo lei? Quello che entra in vigore il 1 gennaio è una promessa incrociata OPEC di 1,2 milioni di barili al giorno più non OPEC di circa 0,6, un totale di 1,8, per un mercato che è complessivamente 96 milioni di barili al giorno, cioè è un margine questo, ma se pienamente rispettato questa promessa potrebbe far salire i prezzi ben oltre anche i 70-80 dollari. Ricordo che i 55 di questi giorni sono dei valori non raggiunti dal luglio del 2015, ma sono circa la metà rispetto a quelli alla medie dei precedenti fino al 2014, dei precedenti 4 anni. Pertanto siamo dei livelli ancora molto bassi rispetto a quelli precedenti alla decisione dell'Arabia Saudita di inondare il mercato. Ci sono degli altri elementi, c'è la domanda che sale, certo c'è la Libia che sta recuperando, la Nigeria che anche questa è fuori, ci sono gli Stati Uniti con il loro fracking che stanno offrendo, stanno ripartendo, però complessivamente il quadro è mutato. Per fortuna, dico per fortuna di noi consumatori, gli accordi non vengono pienamente rispettati, ma se come probabile ci sarà un alto grado di rispetto, i prezzi cominceranno a salire, questo porterà di nuovo benzina un po' più cara, carburanti un po' più cari, ma poi è già sicuro che dai prossimi giorni, dal 1 gennaio, ci sarà una mazzata in Italia, cioè mazzata, insomma, un aumento sensibile sulle bollette dell'elettricità e del gas, in parte già dovute agli aumenti delle settimane scorse, cosa che si ripeterà probabilmente dal 1 aprile. Ecco Tabarelli, questo è un aspetto molto interessante che lei ha introdotto, perché ricordiamo che per almeno 2 anni si è detto: allora, prezzo dei carburanti basso, tassi di interessi molto bassi stanno contribuendo ad una possibile ripresa non tanto della nostra economia quanto di quella americana, di quella europea. Adesso con un petrolio che invece inverte la sua tendenza, cosa potrebbe accadere di negativo? E soprattutto, ecco, lei lo anticipava, le nostre bollette come potrebbero pesare maggiormente il prossimo anno? Ma io vedo degli aspetti positivi per lo più, perché noi in Europa in particolare, ma un po' tutte le economie industrializzate, soffriamo di deflazione più che inflazione. Pertanto un po' di spinta sui prezzi dovuto all'aumento del petrolio è paradossalmente positivo, perché solo con un po' di inflazione intorno al 2%, 2,5% possiamo avere crescita stabile. Poi se c'è crescita negli Stati Uniti è estremamente positivo per tutti, anche se è da confermare questo, ma i prezzi stanno salendo, vediamo anche proprio il bilancio di cui parlavo prima, si intravede, perché c'è più domanda anche dalla Cina, l'Asia, che sembrava in forte rallentamento, le importazioni di prodotti petroliferi delle ultime settimane danno indicazioni di forti buoni consumi, ecco, allineati a quelli del 2014 come tasso di crescita. Poi per quanto riguarda, ecco, le nostre bollette, anche lì ci sarà un aumento, in parte dovuto alla ripresa dei prezzi del gas, che sono legati a loro volta un po' meno del passato al prezzo del petrolio. Quando aumenta il petrolio si trascina un po' tutte le commodity energetiche. E quella che è cresciuta tra l'altro molto di più, che è un po' sconosciuta, ma è quella più usata nella produzione elettrica anche in Germania, paese che è ritenuto in maniera errata essere il più verde d'Europa, in realtà è quello che consuma più carbone. Ecco, i prezzi del carbone sono aumentati molto, c'è stato un problema di nucleare in Francia, pertanto i prezzi dell'elettricità sono saliti molto, e questo lo vedremo nelle prossime bollette, ma avremo degli aumenti che saranno annunciati fra qualche ora, certo, dell'autorità, intorno, noi stimiamo intorno, adesso vedremo, ma l'ordine di grandezza è il 3%, ma ripeto, sono degli elementi positivi questi che aiutano ad avere un po' più di inflazione, che però è un'inflazione da importata, non da domanda interna, questo è il problema, però se non altro dà un po' più stabilità di carattere finanziario, che aiuta anche quella. Ecco, al 349-238-6666, quando parliamo di benzina, di diesel, di prezzo al distributore, ci arrivano molti più messaggi rispetto alla media, un argomento, Tabarelli, che evidentemente interessa molto, e si chiedono, oppure si fanno le solite, ma molto apprezzate considerazioni, e si dice... quando il prezzo del petrolio diminuisce vediamo difficilmente un effetto positivo al distributore, e invece quando aumenta vi sono immediate crescite. Lei prima ci spiegava che effettivamente non è così, che è un mercato comunque che reagisce abbastanza rapidamente alle oscillazioni del petrolio. L'industria del petrolio fa miliardi di dollari di utile, non in questo, adesso ne sta facendo meno perché i prezzi sono bassi, è un'industria che è molto ricca storicamente e non ha bisogno di questa speculazione di basso livello per guadagnare. Noi analizziamo continuamente, ci sono dei periodi in cui ci sono dei ritardi, ma nel lungo termine tendono a bilanciarsi. Però ripeto, nelle ultime settimane, nelle ultime 4 settimane c'è stato un ritardo a fare gli aumenti. Ricordo a tutti i consumatori, so che molti sono arrabbiati, ricordo 2 cose però fondamentali, che in tutti i mercati, in particolare per i prodotti così pervasivi come la benzina, il consumatore tende a vedere sempre gli aumenti, mai le riduzioni, ma questo è nella psicologia di qualsiasi consumatore. Il secondo aspetto però più concreto è che gli attuali prezzi, parlavo del gasolio intorno a 1,38, benzina intorno a 1,50, sono sempre 30-40 centesimi più bassi dei picchi di inizio 2012. Perciò dobbiamo ancora essere contenti di questi valori più bassi, dove comunque la tassazione, l'ipertassazione sui carburanti, in particolare in Italia, conta per quasi un 70%, cioè su quei prezzi, dicevo prima, quasi un euro sono tasse. Perciò anche lì i movimenti dipendono, sono annullati un po' dalla tassazione. Certamente. Ma ripeto, la percezione è un po' sbagliata rispetto alla realtà. E in effetti ricordiamo che il prezzo di benzina e diesel prevede una componente fiscale e un costo industriale, e la componente fiscale influisce su circa il 65% del prezzo finale dei carburanti, il restante 35% del prezzo è rappresentato dal costo industriale del carburante. Quindi evidentemente poi i margini di oscillazione, almeno per quanto riguarda il prodotto, il prezzo del prodotto finale in Italia, sono abbastanza limitati. Un'ultima domanda a Tabarelli, insomma, si parlava di una Libia che tornava ad offrire petrolio, un Iraq che tornava a buone produzioni, l'Iran, oramai ce lo siamo scordati, ma è un anno che ha ripreso ad esportare, e comunque invece alla fine l'OPEC e i paesi a lui vicino sono riusciti comunque a fare alla fine una stretta sul prezzo del petrolio, che era abbastanza imprevedibile, almeno fino a qualche mese fa, vista anche la posizione dell'Arabia Saudita. Esatto, giusta la parola chiave è sempre Arabia Saudita, poi ci sono anche gli altri, come ha ricordato lei. L'Arabia Saudita a metà 2014 aveva deciso di non dare il mercato per penalizzare soprattutto l'Iran, che si era avvicinato troppo all'alleato dell'Arabia Saudita, che sono gli Stati Uniti, perché Obama aveva bisogno dell'Iran. E adesso, paradossalmente, un po' già prima, ma anche con le elezioni di Trump, i sauditi sono più tranquilli, gli iraniani sono più pragmatici, si sono riavvicinati, il che non vuol dire che vanno d'accordo, però in maniera pragmatica hanno entrambi interesse a far sì che i prezzi salgano, ovviamente, per questioni molto facili da comprendere, e adesso sono un po' più ordinati. Questo accade con ciclicità nella lunga storia dell'OPEC, che parte di fatto negli anni 70. Quando si avvicinano Iran e Arabia Saudita, i prezzi salgono. Quando litigano, come è stato fino a qualche mese fa, i prezzi crollano. Adesso siamo entrati in questa nuova fase. Ovviamente il futuro non si può mai prevedere, particolare per il petrolio, però dovremmo essere su un trend di crescita, ripeto, perché i prezzi adesso del petrolio e anche quelli della benzina sono di molto molto più bassi rispetto ai valori di qualche anno fa. Bene, bene, grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, e noi ci fermiamo per il meteo. Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Una buona serata, un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Anticiclone è sempre unico protagonista del tempo fino a Capodanno sull'Italia, con prevalente stabilità ovunque. Giornate quindi assolutamente tranquille al centro-nord, con ampi spazi di cielo sereno, non solo in pianura ma anche in montagna. Qualche banco di nebbia in più ritornerà nei prossimi giorni in Valpadana, con clima via via più invernale. Da segnalare nelle prossime ore e domani invece un po' di variabilità all'estremo sud Italia, quindi tra Puglia, Basilicata ed Appennino meridionale, con qualche piovasco. Temperature che proprio il sud Italia in queste ore sono in diminuzione per l'ingresso di venti più freddi dei Balcani, con mari mossi o molto mossi. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti scaricando l'app di trebimeteo.com. Focus Economia. minuti, focus di economia di nuovo insieme. Parliamo ora della giornata in borsa, insieme ad Andrea Fontana, collega di Radio Core Il Sole 24 Ore. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Andrea, allora, com'è andata la giornata in borsa? FTSE MIB, diciamo subito, meno 0,78%. Sì, una giornata di correzione generale per quanto riguarda Milano soprattutto, e anche per le altre borse europee, ma Milano è stata senz'altro la più penalizzata, soprattutto per le vendite sul comparto bancario, che rimane, diciamo, l'incertezza Monte dei Paschi. Oltre, in serata peraltro, un portavoce del Ministro delle Finanze tedesco ha ricordato come la BCE e la Commissione Europea debbano vigilare per rispetto delle regole sul salvataggio del Monte dei Paschi, ma poi c'è anche il tema della vendita e delle quattro banche, le quattro cosiddette good banks che furono salvate un anno fa con il fondo di risoluzione, nonché sempre il tema dei deteriorati, su cui è forte il pressing della BCE, e non a caso la peggiore banca sul listino è stata la Carige, che è la Cassa di Risparmio di Genova, che ha perso oltre 5 punti percentuali. Certamente, quindi andiamo con ordine, soffermiamoci un momento proprio sui bancari, vedendo i peggiori del FTSE MIB, leggo in ordine UbiBanca, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare e Fineco Bank. Sì, come detto, le popolari sono state le più penalizzate. Va anche detto che arriviamo in una fase di fine anno dove si va un po' a prendere beneficio sul settore bancario, perché nel solo mese di dicembre il settore ha guadagnato il 30% con il rally che ha caratterizzato il comparto, soprattutto dopo il referendum costituzionale. UbiBank in particolare ha sofferto oggi meno 3,3%, è la banca che a giorni dovrebbe formulare l'offerta definitiva per tre delle banche che erano state salvate lo scorso anno, cioè c'è la banca per Banca Etruria, Banca Marche e per la Carichieti. Tema invece delle sofferenze, lo smaltimento delle sofferenze nei primi mesi con il piano dei primi mesi del 2017 per la Popolare di Milano e il Banco Popolare, che non a caso hanno perso oltre 2 punti percentuali. E sin qui Andrea Fontana, collega di Radio Cuore, il Sole 24 Ore. Abbiamo detto delle banche, Parmalat ieri, Lactalis, l'OPA lanciata dai francesi che già comunque detengono la maggioranza di Parmalat, e oggi il titolo come ha reagito? Ha reagito ancora al rialzo, quindi superando di slancio i 2,8 euro che sono il prezzo a cui è stata annunciata l'offerta da parte del gruppo francese per cercare di raccogliere, di portare a casa l'ultimo 13% circa del capitale di Parmalat, che è ancora scambiato in borsa, ma il mercato sembra chiedere di più, anche perché uno dei fondi ancora azionisti di Parmalat, Amber Capital, che potrebbe essere insomma uno degli aghi della bilancia in questa partita, perché possiede una percentuale tra il 2 e il 3% del capitale di Parmalat, ha dichiarato oggi a Radio Cor di non essere intenzionato a consegnare i titoli, perché ritiene Parmalat poco valorizzata al prezzo dell'offerta proposta da Lactalis, cioè a 2,8 euro, e quindi in prima battuta non intende consegnare i titoli. Questo, diciamo così, fa un po' credere al mercato che ci possa essere un margine per un ritocco al rialzo del prezzo dell'offerta. Ecco perché il titolo si mantiene intorno ai 2,9 euro, quindi sopra il prezzo dell'OPA, che è stato invece annunciato a 2,8. Abbiamo visto, Andrea, nel nostro primo approfondimento, e abbiamo parlato dell'aumento del prezzo del petrolio, le sue conseguenze anche sui prezzi finali, e mi sembra che il rafforzamento del prezzo del petrolio stia valorizzando anche i relativi titoli sui mercati. Assolutamente sì, abbiamo un petrolio che sia per quanto riguarda il Brent che per il WTI ai massimi da circa un anno e mezzo. Si attende l'implementazione di questi accordi tra i principali paesi esportatori per il taglio della produzione a partire dal primo gennaio, e oggi non a caso in generale le materie prime sono state tutte al rialzo, e così le società che operano in questi settori. A Milano Saipem è stata la migliore, guadagnando l'1%, e anche Eni e Tenaris sono stati a lungo i titoli che si sono tenuti tra i pochi in rialzo a Piazza Affari. E un altro segnale di questo movimento dei titoli petroliferi e delle materie prime è dato dal fatto che Londra, per lo più caratterizzata da una forte presenza sul listino di titoli del settore minerario, è stata la migliore, guadagnando circa 0,5 punto percentuale, in un'Europa invece che è stata nel complesso sottotono nella seduta borsistica di oggi. E parliamo ora di Mediaset e Telecom. I titoli oggi hanno mostrato una tendenza al ribasso, quindi a livello percentuale non sono poi così da segnalare in particolar modo, ma il dato, quello che ci interessa, è che entrambi sono tra i titoli comunque più scambiati in giornata. Sì, soprattutto Mediaset si è visto un volume di scambio ancora significativo, perché è stato trattato circa l'1,5% del capitale sociale, e è chiaro come anche i volumi per quanto riguarda la partita di Mediaset di scambio siano interessanti, proprio perché ormai sia Vivendi sia Fininvest sono in una situazione in cui si sono rafforzate, diciamo così, al massimo delle loro possibilità, e nuovi acquisti potrebbero far scattare invece l'obbligo di lanciare un'offerta sul mercato. Gli operatori credono poco al lancio di un'offerta pubblica da parte del gruppo francese, e vedono invece più come probabile una prospettiva in cui si raggiunga un accordo tra quelli che ormai sono i due principali azionisti di Mediaset, cioè Fininvest e Vivendi, un accordo che potrebbe poi portare eventualmente uno scambio di azioni, forse l'ingresso di Mediaset nel gruppo francese, ma attualmente siamo a bocce ferme. Bisogna vedere come si muoveranno i francesi e come risponderà la holding della famiglia Berlusconi. E noi cercheremo tra breve di dare risposte a questi quesiti, parleremo proprio nello specifico di Mediaset e di Vivendi. Ringrazio allora Andrea Fontana, collega di Radio Core Il Sole 24 Ore, e noi cambiamo in questo momento argomento. Andiamo proprio a parlare della vicenda Mediaset Vivendi, e lo facciamo grazie al contributo della collega Antonella Olivieri del Sole 24 Ore. Buonasera Antonella. Buonasera. Antonella, allora ti chiedo una prima cosa, poi ci fermiamo brevemente per il traffico. Allora, Mediaset e di riflesso anche Telecom restano tra i titoli più scambiati, ma si diceva Vivendi e Fininvest hanno raggiunto le quote che potevano raggiungere prima di essere obbligati ad operare un'offerta pubblica di acquisto. Allora, questi volumi che si stanno scambiando in questi giorni, da chi vengono presi in parole povere? E diciamo che si potrebbe avere il sospetto che entrambi gli schieramenti stiano un po' posizionandosi con degli amici, degli azionisti vicini. Ciò detto, nessuno lo confermerebbe mai, perché altrimenti scatterebbe la famosa OPA di concerto, e quindi va anche detto che i volumi stanno calando, perché probabilmente i posizionamenti sono anche finiti, perché c'era un 30% di flottante residuo al netto delle quote dei due primi azionisti, e è passato di mano, certo, il 25% del capitale a oggi, extra acquisti dei francesi e anche di Fininvest. Quindi si può presumere che chi aveva comprato a questi livelli, che sono molto elevati perché praticamente sono raddoppiate le quotazioni nel giro di un mese, non l'abbia fatto perché pensa di poterci speculare, anche perché l'eventualità di un'OPA effettivamente è molto remota. Non ci dobbiamo dimenticare che c'è un'istruttoria aperta della Gcom che sarebbe anche pronta a bloccare un'eventuale OPA perché contraria alla Certamente. Legge. Certamente. Antonella, allora noi ci fermiamo un attimo, diamo spazio al traffico e poi andiamo ad approfondire proprio questi temi che tu stavi anticipando. Focus Economia. Di nuovo insieme 17:48, Focus Economia. Stiamo parlando di Mediaset, di Vivendi, lo facciamo con Antonella Olivieri, collega del Sole 24 Ore. Allora Antonella, dicevamo che nonostante il prezzo ormai delle azioni Mediaset sia abbastanza elevato, continua comunque un passaggio di mano molto molto importante. Ora, siccome nessuno compra per poi rivendere sapendo che il prezzo è già alto, evidentemente compra per tenerlo da parte e per darlo a chi, ci stavamo domandando questo. Qualcuno scrive che stiano comprando gli amici dei francesi, potrebbe essere un risvolto giusto questo? Sì, magari anche gli amici degli italiani, nel senso che entrambi hanno interesse a rafforzarsi se quella che si prefigura, come sembra, è una guerra di trincea, nel senso che In un confronto, per dire, in assemblea, se ci fosse solo il 30% dei diritti di voto dei francesi e il 40% dei diritti di voto di Fininvest, evidentemente in un'assemblea ordinaria la spunterebbe Fininvest, e in un'assemblea invece, in un'assemblea ordinaria la spunterebbe, certo, Fininvest, dove c'è la maggioranza semplice per deliberare; in una straordinaria invece molto probabilmente la spunterebbe Vivendi. Quindi entrambi hanno interesse a far valere i loro voti. Certamente. Allora, sul fronte degli italiani, c'è stata qualche agenzia oggi che stavo leggendo, si potrebbe parlare quindi di difesa della famiglia Berlusconi, a fianco della quale potrebbe scendere in campo, secondo te, anche un alleato storico come Mediolanum, Ennio Doris? Il rischio è sempre quello dell'azione di concerto. Finora nessuno ha dichiarato superamento di soglie rilevanti, cioè il 3-5%, però ci sono 5 giorni di tempo da superamento delle soglie per denunciarlo, quindi vediamo nei prossimi giorni se uscirà qualcuno di socio importante al di fuori dei due azionisti principali. Certamente, e ricordiamo allora che il braccio di ferro tra Vivendi e Fininvest arriva abbastanza da lontano, nasce tutto con il contratto poi saltato per l'acquisizione di Premium. Ora, secondo te, Antonella, c'è ancora qualcosa legato a quel contratto lì, quindi relativo proprio alla televisione, a Premium, o invece la partita è andata oltre e riguarda effettivamente il controllo poi un futuro nel medio termine proprio di Mediaset stessa? Direi proprio che è andata oltre, perché un accordo su Premium l'avevano già raggiunto, i francesi non l'hanno più voluto onorare. Mi sembra che anche Mediaset si sia rassegnata a considerare che ha perso un potenziale alleato e che invece non può comunque rinunciare a chiedere i danni per quello che è successo. Certo, e invece per quanto riguarda Vivendi, come leggiamo un po' tutti, sta giocando effettivamente su due campi diversi, quindi Mediaset da una parte e Telecom dall'altra, sono due partite molto, molto importanti, o invece sono dei campi separati? Ma io credo che nell'ottica dei francesi, per loro l'ideale sarebbe avere la... diciamo un'influenza su entrambi i gruppi, però questo è vietato in Italia dalla legge Gasparri, e finché c'è questa legge non mi pare che ci sia intenzione di cambiarla al momento, e non è possibile. Quindi l'unica forma di accordo possibile sarebbe se Fininvest accettasse di spostarsi su Telecom, nell'azionariato di Telecom, e se Vivendi accettasse di spostarsi sull'azionariato di Mediaset. Però diciamo, questa è soltanto un'ipotesi al tavolino, l'unica, certo, che non cozza con la legge Gaspar, altrimenti non si capisce assolutamente come sia compatibile la possibilità di un accordo con le regole attuali che abbiamo in Italia. Bene, una vicenda questa che evidentemente ci offrirà altri spunti nelle prossime settimane. Ringrazio Antonella Olivieri, collega del Sole 24 Ore. Chiudiamo la pagina dedicata a questa vicenda Mediaset e Vivendi e passiamo a parlare di Monte dei Paschi di Siena. Monte dei Paschi di Siena, nostro ultimo approfondimento, ne stiamo parlando quotidianamente in Focus Economia, perché è una vicenda che interessa tanti risparmiatori. Lo facciamo oggi e grazie anche al contributo del collega Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Grazie della tua partecipazione. Gianni, leggo una cosa uscita in agenzia poco fa. La Consob dice che tutte le obbligazioni MPS menzionate nel decreto legge del 23 dicembre, il decreto, lo ricordiamo, il salva risparmio, sono state emesse e collocate dalla banca tra il 2001 e il settembre 2010 e quindi non obbligazioni successive, quindi il decreto non si riferisce ad obbligazioni successive. Questo aiutaci a interpretare questa nota della Consob? Sì, è una precisazione di quello che era scritto nel decreto. Il decreto riporta l'elenco delle obbligazioni subordinate che sono sottoposte a conversione forzata in azioni. In larga parte sono obbligazioni subordinate in mano agli investitori istituzionali, alle cosiddette controparti qualificate, quindi c'è la conversione forzosa con il controvalore del 75% rispetto al valore di carico e nulla più. Invece per la famosa obbligazione, quella del 2008, con scadenza 2018, che è in mano a circa 40.000 piccoli risparmiatori, investitori retail, c'è il meccanismo che produce una proposta, diciamo così, di indennizzo attraverso sostanzialmente lo scambio fra le azioni che nasceranno dalla conversione forzata e dei bond ordinari. In pratica i piccoli risparmiatori alla fine di questo percorso potranno avere in mano dei bond ordinari valutati alla pari, quindi senza perdite in conto capitale per loro, e soprattutto, trattandosi di bond non subordinati, sono dei titoli di fatto più sicuri rispetto a quelli che avevano acquistato originariamente. Gianni, oggi comunicato del Ministero delle Finanze tedesco, dove in sostanza ci si rivolge ai vertici di Bruxelles e si dice che praticamente la BCE e la Commissione Europea devono assicurare che le autorità italiane rispettino le regole dell'Unione Europea. Ora, io immagino che il decreto del 23 dicembre varato da Palazzo Chigi sia stato concordato con Bruxelles. Allora, il governo tedesco dove vuole andare a parare? Sì, diciamo che il significato letterale del comunicato dice una cosa ovvia, cioè che l'Italia, essendo un paese membro dell'Unione Europea, deve rispettarne le regole, e la Commissione Europea, in particolare la DG Comp, cioè la Direzione Generale che vigila sulla concorrenza e gli aiuti di Stato, deve vigilare appunto sul rispetto delle regole. Fin qui tutto ovvio. Il fatto che si faccia un comunicato per dire l'ovvio indica però una cosa ulteriore, cioè che c'è un evidente fastidio da parte tedesca sui meccanismi messi in campo per il sostegno pubblico straordinario su MPS e sulle altre banche che potranno averne bisogno, e i meccanismi soft sul burden sharing, cioè sulla conversione forzosa delle obbligazioni di cui parlavamo appena adesso. Qual è lo scenario? Lo scenario è che siamo alla prima vera applicazione importante delle regole della cosiddetta BRRD, cioè della direttiva europea del 2014, quella del bail-in, per capirci. Essendo un territorio non ancora calpestato, nel senso che non ci sono state ancora in Europa applicazioni su banche importanti sistemiche di questo tipo di regole, naturalmente la loro implementazione è soggetta al consueto tira e molla con Bruxelles, certamente, ma soprattutto con la Germania, che dice sostanzialmente che gli aiuti pubblici non vanno bene mai. Benissimo, grazie a Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore. Per oggi è tutto, un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Filippo Aureggi in regia, un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24, libera la voglia di fare.